Eccoci qua, un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco. Nuovo episodio che si apre come sempre con la nostra sigla Happy Days di purpleplanet.com e siamo pronti con questo nuovo episodio in onda su Radio Big World lunedì alle 8, quindi se ci state ascoltando live sono le 8 di lunedì sera. Siamo sempre noi qui, Pietro e Claudio. Ciao. Ciao, e siamo i vostri dimostratori preferiti di Area Games, nonché conduttori di questo podcast. Podcast che questa settimana parlerà di filler, che letteralmente dall'inglese vuol dire riempitivo, sta per gioco riempitivo, appunto, che serve come passatempo tra un gioco grosso e l'altro. Quante volte durante una serata di gioco capita che, oh, dobbiamo aspettare gli altri? Cosa facciamo intanto? Facciamo un fillerino a questo gioco. Sembra una pubblicità detta così. Perché mi hai interrotto? Un fillerino, appunto, è un gioco che dura pochi minuti, 5, 10, 20, massimo mezz'ora, proprio se vogliamo sforare. E quindi questa sera parleremo di giochi veloci, poco impegnativi, i cosiddetti filler. Bene, quindi partirei io, visto che Claudio è un po' sottotono questa sera. Addirittura, visto, non mi risponde A neanche. volte è più assente che sottotono, si dice. Non mi risponde neanche a tono, quindi è proprio. Non è proprio lui. Quindi. Direi, dicevo, partirei io con un gioco che, tra l'altro, è uno dei miei ultimi acquisti. Ed è un gioco che mi ha sorpreso tantissimo. Il suo nome è Wild Arena. È un fillerino italiano di Luca Bellini che ha vinto nel 2012 il premio Archimede e come ricompensa di questa vittoria è stato pubblicato da Cartamundi. E il gioco quindi penso sia reperibile soltanto in Italia, adesso non so bene. È un semplice gioco di prese e di bluff, che però mi ha colpito positivamente. Principalmente l'ho comprato per la grafica e il concetto della scatola. Costava poco, c'erano questi animali combattenti, ho detto, oh, sembra un gioco sconosciuto, lo voglio. Dopodiché non mi aspettavo nulla dal gioco, neanche dopo aver letto il regolamento non ero molto colpito. Invece la prima partita fatta sono, wow, questo gioco è veramente ha avuto veramente un'ottima idea il creatore. Allora, spieghiamo come funziona. Semplicemente tutti i giocatori hanno in mano lo stesso pool di carte, queste creature che vanno dall'1 al 13 se non sbaglio. Più il numero è alto, più la creatura è grossa. L'1 è un coniglietto, una faina, è un piccolo animale e il 13 è questo coccodrillo sovrappeso. Quindi più si va in alto, più le creature sono forti. Poi le altre carte che ricevono i giocatori all'inizio partita sono le carte arbitro. Le carte arbitro sono praticamente le condizioni di vittoria del match. Quindi, quando un giocatore di turno gioca segretamente una carta arbitro che conosce solo lui, e quella è la condizione di vittoria del match, che quindi sa solo il primo giocatore. Dopodiché gioca una creatura scoperta, che è il suo lottatore che manda sul ring. In senso orario, gli altri giocatori giocheranno anche loro un animale da mandare sul ring. Lo scopo qual è? Intuire, a seconda della forza della creatura giocata da chi ha scelto l'arbitro, quale può essere l'arbitro, e quindi scoprire il bluff e cercare di vincere la manche. Quando tutti hanno giocato il loro lottatore, si gira l'arbitro e si vede chi ha vinto la manche. Allora, gli arbitri sono la creatura maggiore, quindi una volta che tutti quanti sono sul ring, vince quello con il numero più alto. La creatura minore, quindi vince la creatura più bassa. E la creatura minore ma più alta di 3, se non sbaglio. E la creatura maggiore ma più bassa di, non mi ricordo. Quindi comunque ci sono anche degli step intermedi. E in più c'è la carta Twin, che sinceramente è l'unica cosa del gioco che secondo me stride un po' gli ingranaggi. Praticamente, se viene giocato come arbitro la carta Twin, Il giocatore che ha giocato l'arbitro vince soltanto se uno degli altri giocatori gioca la sua stessa creatura. È molto molto difficile, però serve ai fini del gioco perché, allora, non abbiamo detto che nel caso venga giocata la stessa creatura da tutte e quattro, facciamo, vince l'ultimo che l'ha giocata. Ad esempio, se la carta arbitro era vince la creatura più grossa e tutti giocano il coccodrillo, vince l'ultimo giocatore ad aver giocato il coccodrillo. La carta twin serve appunto a fare questo, a fare in modo che la gente sia più restia a giocare la carta uguale a chi mette l'arbitro, quindi al primo che manda il suo lottatore. Però è anche vero che appunto la gente essendo restia, aspettandosi il twin, raramente chi ha il twin riesce a vincere. Però giocando in 4 può darsi che uno metta la tua stessa carta. Giocando in pochi è molto difficile. E l'altra cosa da dire è che il gioco ha un'altra regola, ovvero che se viene giocato il coccodrillo vince l'1. Vuol dire che per fare il giro dei numeri anche il 13 può essere battuto e può essere battuto dall'1. Quindi se il giocatore di turno con condizione vince la carta più grossa, ha messo il 13, uno degli altri giocatori mette l'1, vince l'1, che è considerato più grosso del 13. Questo per fare in modo che ovviamente il 13 abbia una carta che possa sconfiggerlo e che l'1 abbia una carta che può sconfiggere, perché altrimenti c'era un blocco a livello di meccanica. Il gioco è tutto qui, semplicemente. Una volta esauriti gli arbitri, esaurisce la partita e vince chi ha vinto più match. E quindi una volta che uno vince un match si tiene l'arbitro da parte come punto vittoria e quindi a fine partita chi ha vinto più match è il vincitore. Il gioco è molto molto piacevole e l'idea sincera, del bluff mi piace tantissimo. Mi ha stupito veramente tantissimo questo gioco. Non so quanto sia facile reperirlo, sinceramente. Il costo contenuto è sugli 11-12 euro. Probabilmente se lo trovate usato, veramente con 5-6 euro ve lo accaparrate. È un fillerino ve velocissimo e dall'idea secondo me carinissima. Fino Numero di giocatori. a 4, da 2 a 4. E questo, sinceramente, sarebbe stato meglio fino a 5, perché sono riuscito a provarlo solo alla terza serata in cui l'ho portato perché non riusciamo a essere in quattro, eravamo sempre di più. È un difetto di molti giochi di quel genere che di solito tengono fino a 4. Se tengono fino a di più, di solito sono narrativi o comunque giochini un po' più di presa veloce. È un vero peccato, infatti, perché mi stavo arrendendo all'idea di provarlo. Alla fine, l'altra sera ci sono riuscito e adesso è uno dei giochi che sicuramente porterò sempre dietro come filler. Soprattutto perché è semplice da spiegare. Ad esempio, prendiamo un classico gioco di bluff come Perudo. Perudo è molto più difficile da spiegare a un novizio. Io mi sono ritrovato più volte nella situazione di non riuscire a far capire a una persona Perudo ed è stato messo da parte, cioè hanno detto no, no, questo è troppo complicato, passiamo oltre. No, cioè, è uno di quei giochi che ha un regolamento che dà questo effetto, però il giocatore lo impara giocandolo, non sentendo la spiegazione, quello discorso con Perudo. Ah, sono Gliel'ho spiegato d'accordo. tante volte ed è sempre andata così. Cioè, glielo devi far giocare, non glielo devi far vedere come il giocone matematico. Gli dai una piccola introduzione, ma bene o male le cose le impara durante la partita. Sono d'accordo, però è anche vero che, ad esempio, l'impatto solo di Perudo è molto più forte di questo, perché tu inizi a parlare di numeri, invece qui semplicemente gioca una carta e poi si vede cosa succede. Quindi, trovato Wild Arena, non sembra molto facilmente reperibile, non deve aver avuto una grande distribuzione, essendo un premio, cioè essendo un gioco che è stato pubblicato come premio. Di aver vinto alla concorso di Cartamundi. Comunque sì, confermo, costa sui 12 euro. Se vi capita sotto mano, non lasciatevelo scappare, io ve lo dico. Quindi Claudio, passa a te. Eh sì, adesso mi tocca comprarlo. Lo so, è così purtroppo per persone, cari spettatori, è una tragedia essere in questo settore, bisogna sempre comprare tutto quello che esce fuori di bello e luccicante. Ma andiamo avanti, seriamente e con un po' più di allegria. Parliamo di qualche altro filler recente, acquistato da poco, vediamo un po'. Io parlerei di Welcome to the Dungeon. Non fare questi versi addolorati, perché c'è chi piace e c'è chi non. Dopo lì dipende dalla persona. Dirò a fine partita cosa ne pensi, a fine Fine, fine spiegazione. spiegazione Sì, la a fine partita, non spiegazione penso che cosa ne pensi. cominci neanche. Quindi prego, parla pure Ma di. allora, no. Puntualizziamo un attimo. Le critiche che hanno fatto a questo gioco non hanno senso, ma dopo ne parlerò, le critiche che mi hanno fatto personalmente. Ma entriamo subito nel vivo del gioco. Scatola molto piccolina, contiene più o meno una ventina di carte e delle varie tessere molto carine con dei rilievi dei vari disegni dei personaggi. Il concetto del gioco è: noi siamo degli avventurieri, ogni giocatore, e il nostro compito è affidarci a un guerriero, ladro, mago o barbaro, a seconda del setup del gioco, e sperare di riuscire a entrare insieme a lui e a uscire dal dungeon sani e salvi. Praticamente dovremmo farci scortare da un famoso guerriero, praticamente, e sperare che sia abbastanza abile nel farci sopravvivere. Se riusciremo a fare ciò, otterremo dei punti. Il primo giocatore che ottiene 2 punti vince la partita, altrimenti il gioco può finire per eliminazione, cioè quando una persona non riesce a sopravvivere a un dungeon, subisce una ferita. A 2 ferite un giocatore viene eliminato. Questo è un difetto che entra in molti giochi. L'eliminazione è un problema grave nei giochi da tavola perché tende dopo a escludere persone dal tavolo, cioè tu puoi morire subito e devi aspettare un sacco di tempo per giocare di nuovo. Ma essendo questo gioco un filler, il problema non c'è, perché il gioco dura dei 5-10 minuti, al contrario di giochi come Bang, dove uno potrebbe dare di matto al primo turno a ammazzare un qualunque giocatore. Ma andiamo oltre. Quindi si prende un eroe a caso, questo eroe ha un equipaggiamento di base, cioè 6 oggetti che ognuno gli dà poteri differenti, ed è messo a centro tavola a disposizione di tutti. Un giocatore nel suo turno ha davanti a sé il mastro dei mostri e i suoi punti ferita, che servono anche da Quick Reference, cioè ti spiegano quante carte compongono i mastri dei mostri e in quante copie. Esempio, ci sono 2 mostri che fanno un danno, che sono i Goblin, e così via. Forse anche 3. I mostri in totale sono 13, quelli più forti sono 11. Per esempio, il drago che è più forte, che dà 9 danni all'avventuriero, è unico in tutto il mazzo. I vari oggetti che ha il personaggio possono essere: sconfiggi tutti i mostri con numero pari, ogni volta che sconfiggi un mostro con forza 2 o meno, guadagni quei punti ferita, oppure sconfiggi un mostro che tu sai che è dentro al dungeon, perché il giocatore nel suo turno ha a disposizione 3 azioni: passare, cioè se io passo, non faccio nulla finché gli altri non hanno completato tutto il turno di gioco, oppure pescare una carta, e a questo punto qui si divide in 2 azioni. Quando io pesco la carta mostro dal mazzo, la vedo solo io e posso decidere se metterlo come mostro del dungeon oppure non metterlo, e non mettendolo lo metto via coperto e cavo anche l'equipaggiamento all'avventuriero. E quindi si rende più debole l'avventuriero che ci scorterà, magari anche togliendo un mostro debole, dopo gli dipende dalla scelta. Il punto del gioco è: quando è che un giocatore entra nel dungeon? Quando o tutti hanno passato tranne l'ultimo giocatore, oppure quando questo giocatore deve pescare dal mastro e il mastro è finito. Lui è costretto ad entrare nel dungeon con l'avventuriero, con gli equipaggiamenti che è rimasto, e risolvere uno alla volta i mostri che sono stati messi nel dungeon e sperare di riuscire sopravvissuto. Molto spesso è raro vincere per i punti vittoria, molto spesso si vince l'eliminazione, questo è vero. Ultima volta ho vinto per i punti vittoria, io però c'è anche da dire. La critica che mi è stata fatta, per esempio, è stata: se uno gioca passivamente, il gioco può essere vinto. Il giocatore che ha detto questa cosa è morto, non ha vinto, quindi non aveva alcun senso la critica. Perché comunque l'ha detta durante la partita, se lui passava di continuo, alla fine gli è capitato il turno in cui entrava nel dungeon e le ha prese. Poi gli è capitato di nuovo ed è morto definitivamente. Quindi non è. In realtà è un gioco molto tattico, perché tu ti devi basare sul. Tu sai quali mostri sono nel dungeon e quanta forza hanno. Sai la possibilità e a volte sai anche chi hai messo nel dungeon e vedi gli oggetti che sono a disposizione dell'avventuriero e quando vengono tolti. Se poi viene fuori il pasto che gli toglie l'oggetto più, magari il terzo oggetto, tutti gli altri passano e lo fanno morire nel dungeon, magari. Dopo lì dipende anche cosa hai messo, cosa sai che non c'è, cosa sei sicuro di far fuori, perché facciamo esempio: io so che dentro c'è il drago, però questo avventuriero ha ancora l'equipaggiamento che dice se io entro nel dungeon posso ammazzare un mostro che so che è dentro, quindi lo posso ammazzare di sicuro. A meno che qualche folle glielo tolga, a quel punto passerò. In realtà è molto tattico, la gente lo gioca proprio così, cioè, ah vabbè, guardo, metto, gli tolgo questo a caso. Cioè, ho visto che la gente lo gioca proprio così, in realtà è tattico ed è molto veloce. Non è, diciamo che forse non è apprezzato da chi l'ha giocato proprio così per fare, proprio come se fosse veramente un filler. Secondo me invece va gestito molto bene. Infatti io lo vinco spesso quel gioco perché ho capito come funziona. Mentre gli altri lo giocano così, così per fare. Adesso puoi pur parlare male del gioco. Quello che voglio dire io è, non voglio fare una critica alle meccaniche o che, semplicemente l'ho trovato estremamente noioso. Ma tanto noioso, cioè non era, le meccaniche non le ho trovate divertenti proprio. Ma allora, prima di tutto è un gioco veloce, quindi cioè 5 per 5 minuti non penso che muoia nessuno. Ok. E per il resto non, cioè, non è che sono totalmente d'accordo con quello che hai detto. È un gioco normale, ma non è neanche tremendo. Ci sono giochi molto più brutti, e soprattutto il fatto che è veloce è un punto positivo, perché sono molti giochi che durano 3 ore, che sono veramente noiosi, che il turno del giocatore è lentissimo. Qui il turno è talmente veloce che neanche te ne rendi conto. Probabilmente non ti è piaciuto perché non sei mai entrato nel dungeon, forse sei sempre stato quello che è rimasto fuori da questi concetti, perché la partita è finita comunque. Sinceramente forse, non me lo ricordo. Mi pare che tu hai giocato a metà partita, non hai neanche giocato tutto, sei andato via. Quindi. Sinceramente non me lo ricordo. Appunto, quindi è stato talmente veloce che non sai neanche di cosa stai parlando praticamente. Vabbè, quello che posso dire è che non mi sono divertito, ok? Questo è un commento soggettivo. Ah sì che lo è, appunto, quindi non so, se a me non dispiace, costa una decina di euro, 15. Tranquillo, veloce, 15. Vabbè, io l'ho pagato di meno allora. Ed è uscita anche, credo sia un'espansione in America che si chiama Welcome Back to the Dungeon, che dovrebbe aggiungere altri personaggi aggiuntivi e penso anche qualche mostro, perché comunque il gioco è solo quello. Non è un classico, però ci può stare. Veloce, fantasy, la copertina attrae molto. Meccanica singolare. E in Italia è facilmente reperibile, in quanto essendo di Uplay Edizioni, dovrebbe essere un po' in tutti i negozi specializzati. Come dicevamo, il prezzo è sui 15 euro per l'edizione italiana, costa leggermente di meno quello inglese, ma parliamo proprio di monete. Quindi, e anche questo tiene da 2 a 4 giocatori, siamo sempre lì. Su questo siamo sempre lì. Purtroppo. Invece, visto hai finito con Welcome to the Dungeon, Si è detto tutto. ok, quindi tocca a me parlare di un gioco filler, ma che tiene più giocatori. Ah, ho appena scoperto anche una curiosità che adesso condividerò con voi. Allora, il gioco è MAUV, come MOV, come il verso della mucca. Quello che. Sì, quello delle mucche. Il gioco è MOV ed è del nostro caro carissimo amico Bruno Catala, che di giochi ne ha fatti fino allo sfinimento e ha fatto anche questo divertente gioco di prese che a quanto pare esiste in 2 edizioni. Io pensavo di aver comprato l'unica edizione esistente, Invece c'è la invece Gold Edition. sì, che è quella che ho preso io non sapendo che fosse speciale. E volevo vedere una cosa, infatti sì, è proprio come pensavo. L'edizione, allora, parliamo innanzitutto delle 2 edizioni. Qual è la differenza? Allora, abbiamo MOV Classic che tiene fino a 5 giocatori, è un gioco di carta a 2-5 giocatori. Poi abbiamo MOV Sound, che tiene da 2 a 10 giocatori perché sono due mazzi di carte, e in più ha un'altra peculiarità: quando apri la scatola e togli il libretto delle regole, il regolamento, scopri un sensore luminoso che fa partire un muggito. Quindi la prima volta che apri la scatola, cioè la prima volta, ogni volta che apri la scatola e scopri questo sensore e viene a contatto con la luce, la scatola muggirà. Ma la scoperta ancora più grande è che è doppiato da Bruno Catala. Il muggito suo? No, non lo so, questo l'hai detto tu. Ah, povero. Comunque, a parte questa. Allora, quindi la differenza tra le due versioni è che la versione che costa una decina di euro tiene fino a 5 giocatori, non muggisce e il regolamento è meno lingue, mentre la versione che costa 15 euro, ovvero Move Sound, tiene fino a 10 giocatori, muggisce e il libretto è stato tradotto in una miriade di lingue, la maggior parte delle Esatto. quali molto inutili. Ad esempio, cioè, nel regolamento abbiamo il latino, per dire, o l'esperanto, la lingua universale molto utilizzata. E questo è per questo che dovete comprare il gioco. Vedete quante cose in più ha questa edizione. Quindi quei 5 euro della versione sound si ripagano soprattutto per le lingue inutili nel regolamento e il suono della mucca, no? Scherzi a parte, il gioco tiene fino a 10 giocatori con la versione sound, quindi quei 5 euro in più possono valerne la pena. Bene, ora parliamo del gioco, dopo aver parlato di queste due edizioni che si trovano entrambe, in quanto sono entrambe dello stesso editore, dello stesso distributore, ovvero la Hurricane. Allora, il gioco ricorda un pochino per le meccaniche, ma proprio un pochino, Six Nimmt, ovvero noi Eh beh. giochiamo delle carte e tentiamo di non prendere tutto ciò che c'è sul Io piatto. direi anche per il tema, oltre che la meccanica. Già, effettivamente è vero, ricorda Six Nimmt anche per le mucche, non ci avevo pensato, per i tori. Ok, Six Nimmt è conosciuto in Italia anche come 6 o 6 e prendi della Dal Negro. Allora, torniamo a Mu. Mu funziona in questo modo: noi abbiamo una mano di mucche, di queste carte raffiguranti delle mucche. Le mucche hanno un numero e delle mosche che gli girano attorno, e a volte sono mucche speciali. Allora, il numero è importante per come dovremo giocarle nella mandria, che vediamo dopo. Le mosche sono i punti negativi che dà quella mucca se la mettiamo nella nostra stalla, e quindi sono come le teste di toro in Six Nimmt. E le mucche speciali le vediamo dopo. Allora, durante il nostro turno noi giochiamo una mucca. Questa, a seconda del numero che ha, può unirsi alla mandria. La mandria è una fila di mucche che si viene a creare dal primo giocatore al centro del tavolo. Questa fila viene messa in ordine numerico, quindi ad esempio se il primo giocatore gioca un 8 e il secondo può giocare una mucca più bassa o più alta. Se gioca il 9, questa va dopo l'8, se gioca un 7, un 3, un 2, questa va prima dell'8. Dopodiché il giocatore seguente può giocare una carta inferiore alla più bassa della mandria o superiore alla più alta della mandria. Quindi se ad esempio ci sono un 3 e un 8, tutte le carte tra il 3 e l'8, il 4, il 5, il 6 e il 7 non sono giocabili perché le mucche, a parte quelle una speciale, non possono infilarsi dentro alla mandria già formata. Quindi rimangono possibili l'1, il 2 e quelle più alte di 8. Quindi semplicemente tu giochi carte più basse o più alte della fila che si è formata al centro del tavolo finché puoi. A un certo punto, quando il giocatore non ha più una carta più bassa o una carta più alta della fila che c'è al centro del tavolo, è costretto a prendere tutta la mandria e se la mette nella stalla. Quelli saranno punti negativi a fine partita. Semplicemente tu giochi carte se possibile, altrimenti prendi. Questo è il regolamento del gioco. Dopodiché ci sono alcune mucche speciali, ad esempio c'è la mucca che può infilarsi in una posizione libera dentro la mandria e viene a occupare quel numero. C'è una mucca che si può mettere sopra un'altra già presente. In questo momento non ricordo le altre mucche. Ah, sì, ci sono le mucche bloccanti che bloccano la cima o il fondo della mandria. Una volta che queste vengono messe, non si possono mettere più carte in cima o in fondo. E basta. E questo è il gioco, semplicemente. Un gioco di prese in cui nel tuo turno giochi la carta se puoi, altrimenti prendi. La regola è semplicemente devi mettere una carta più bassa o più alta della fila che si è andata a comporre al centro del tavolo. Questo è Mou di Bruno Catala. Un gioco secondo me molto divertente, molto azzeccato. Se si gioca con la versione sound da 2 a 5 si usa un solo mazzo, se si gioca fino a 10 si usano due mazzi e si sbloccano altre mucche speciali che non ci sono nella versione da 2 a 5. Ah sì, e il gioco finisce quando tutti finiscono le carte in mano, perché il mazzo viene diviso a seconda del numero di giocatori. Più sono i giocatori, cioè da 2 a 5 più sono i giocatori, meno carte avranno i giocatori in mano. Ad esempio, giocando in 2 si avranno molte più carte perché il mazzo viene diviso in 2. Tutto qui. Ok. Consigliatissimo, durata sui 15 minuti. E bene, avanti così. Pronti, Claudio? Vai col tuo prossimo filler e poi andiamo in chiusura. Cosa hai in Molto serbo per veloce, noi? c'è una puntata velocissima perché farò filler veloci. Dopo la mucca catala possiamo parlare di Di cibo. cibo. Cibo, sushi. Avrei detto, scusa, avrei detto food fight, visto che hai detto cibo, no? Non me l'aspettavo. Il food fight non è un filler, Ah, dura da mezz'ora in su, poi ha anche il difetto dei giocatori che devono pensare molto cosa prendere, cosa tenere come carta, mentre Sushi Go è velocissimo. bene, quindi ci porti un altro gioco di Uplay edizioni, a quanto pare. Vabbè, non è colpa mia se sono quelli che acquisto ultimamente. Ok, vai. Allora, cosa rappresenta Sushi Go? Non è spiegato precisamente, ma suppongo che rappresenti ordinazioni molto veloci, perché il gioco si gioca velocemente e si continuano a buttare ingredienti o comunque piatti sul tavolo davanti a noi per continuare a fare più punti. Quindi io, se mi mangio il giri di seppia con i wasabi, è più saporito e quindi faccio più punti, questo è il concetto. In più il budino che lo mangio a fine partita mi fa fare altri punti a fine partita. Probabilmente questo è il concetto del gioco, perché sono varie carte che giochiamo che danno dei punti secchi, altre che si attivano in certi momenti. Il dessert viene contato solo a fine partita, quindi direi che il concetto sia quello lì: Cioè, stai accumulare ordinazioni e poi mangiarcele. spiegando il background di Sushi Go, è incredibile. Sì, Io non ci ho neanche perché mai pensato che avesse un però background. effettivamente è questo il concetto, se no perché dovresti contare il budino solo a fine partita? È il dessert. Non Ok. c'è l'aperitivo, però c'è No, diciamo no, va che. bene, va bene. Non devi Vabbè, darmi spiegazioni. oltre. Semplicemente mi hai stupito. Se Non mi vuoi ti aspettavo. do anche il background di Mau, però non. Vabbè, devi fare la mandria, mettere le mucche nella stalla e però avere meno mosche possibili. Vabbè, dai. Comunque, questo è il background del gioco. Il libretto non lo dice, quindi l'ho inventato io il background. Comunque, passiamo al gioco in sé. Allora, il gioco tiene da 2 a 5 giocatori. È semplicemente un grande mazzo di carte che si ripetono, cioè ce ne sono tipo una decina diverse che si ripetono più volte. Queste carte rappresentano i vari tipi di sushi che andiamo a mangiare al ristorante, più il dessert e le varie salse che si utilizzano sopra. Ognuna di queste, quando viene giocata, ha un effetto diverso che dà punti vittoria. A volte subito, a volte se si risolvono certi effetti, o a volte più avanti durante il gioco. E è un gioco di draft. La draft, come forse abbiamo già detto in passato, è una meccanica molto semplice. Ogni giocatore ha un numero di carte in mano, facciamo esempio, ne abbiamo tutti i 7 in mano. Io ne tengo una e passo le altre 6 al giocatore di fianco a me. L'altro giocatore vicino a me mi passerà le sue altre 6. E così via tutti gli altri. Teniamo un'altra carta e andiamo avanti finché non abbiamo altre 7 carte, però prese da file diverse. Ma questa volta, al contrario di altri giochi, invece che tenerle coperte, appena noi prendiamo una carta la giochiamo subito scoperta sul tavolo e attiviamo il suo effetto. La maggior parte delle carte dà semplicemente punti vittoria e basta, altre dicono se hai più copie di questa fai questi punti vittoria quando tutte le 7 carte sono state giocate. Quindi facciamo un esempio. C'è una carta che dice se ne hai 3 uguali sul campo fai 10 punti vittoria, se non ce le hai, ne hai 2 per esempio, a fine della giocata delle 7 carte non valgono nulla quelle carte. E le bacchette che sono un potere speciale ci sono, che fanno giocare 2 carte in una volta, e carte come il budino che tu le giochi e le accumuli, ma solo l'ultimo turno varranno quei punti, perché il gioco si divide in 3 turni, quindi in 3 ordinazioni. Alla fine di ogni turno, cioè ogni volta che tutti hanno giocato le 7 carte, o comunque il numero di carte secondo il numero di giocatori, ognuno confronta i propri punti e li segna su un segnapunti. Poi scarta tutte le carte tranne i budini e si fa una nuova fase di pesca e si va avanti per altri 2 turni. All'ultimo turno contiamo anche i budini, contiamo i punti di tutti i 3 turni giocati e vediamo chi è stato il giocatore ad aver assaporato più cibo col miglior gusto e come miglior buon gustaio del ristorante. E quella persona sarà il vincitore del gioco. Sushi Go. Oh, che veloce che sei stato. Come il gioco in sé dura 5 minuti, quindi. Posso dire una cosa personale su Sushi Go, citando un noto personaggio? Bello ma non bellissimo. È un gioco che prende per il tema. In più in America c'è anche Sushi Go Party, adesso non so se è uscito anche da queste parti, però con queste parole party, però Sushi Go Party sembra essere una versione con più carte di Sushi Go e forse qualche regola aggiuntiva, non so come funzioni, ma ho visto che è più venduto del normale Sushi Go. È in uscita la versione italiana di Sushi Go Party. Avrà anche quello la scatola metallica, a quanto pare. Sì, è leggermente diverso da Sushi Go. Ha proprio delle meccaniche diverse da quello che sembrerebbe, poi non lo so. E tiene Mi fino a sembra 8. aver avuto più successo in America perché ha venduto molte più copie, da quello che dico. Tiene fino a 8 giocatori anche in confronto. Comunque, bene, Sushi Go che costa sui 16, mi 16-17 euro. pare 16. Sì, l'edizione italiana, poi le edizioni varie di tutto il resto del mondo più o meno sono in linea, solo l'edizione tedesca costa di meno. Però non so, vabbè, effettivamente l'unica parte scritta del gioco sono i nomi delle carte, quindi non è che... Sì, che alla fine sono piatti, quindi non cambia la traduzione. C'è Quindi... solo le bacchette, per dire, è un termine che cambia per... Sì, esatto, quindi non è un problema se avere una versione, la versione del gioco non italiana. L'unica cosa è la versione italiana ha la scatola metallica che le altre edizioni non hanno, che è sempre In una... realtà, cioè sì, è uscita un'altra edizione che la copertina c'è un gatto che mangia i sushi, mi pare. È Vabbè, credo che il tedesca gioco sia lo quella. stesso. Ah, ok, la versione tedesca. Perché ho visto anche quella in Italia in giro, che la vendeva. Ah, sì, molto carino, è della Zoc. Ok. Detto questo, abbiamo finito, abbiamo detto ben 4 filler. Se continuiamo con questo ritmo, prima o poi finiremo i giochi di cui parlare. Vabbè, mi hanno detto che Claudio ha fatto degli acquisti questa settimana, quindi avrà altro di cui Per parlare. aver detto un pazzo che si è comprato dei titoli, anche lui dei giochi che costano un sacco di Sì, soldi. però adesso non parliamo dei fatti nostri. No, Allora, no, basta. bene, ricordiamo i soliti appuntamenti. Allora, se volete venire a provare i giochi suddetti citati e siete della provincia di Forlì Cesena, ci trovate tutti i venerdì sera alle 21 al Bar President di Forlì in zona Ronco, dove ha luogo la serata associativa di Area Games Forlì, la nostra associazione. Presto annunceremo anche altre aree dimostrative sempre nella provincia di Forlì Cesena, sono già in lavorazione, ma è ancora un po' presto per annunciare le date. E altri eventi annessi alla nostra bellissima associazione. Per il resto, ci trovate tutti i lunedì dalle 21 su Radio Big World, radiobigworld.com, dove trovate anche i nostri vecchi episodi. In questo momento trovate solo l'episodio di Halloween perché i vecchi episodi pilota ancora non sono stati caricati. Quelli li trovate su YouTube sull'account Micio Sugone Games. Per il resto direi che possiamo salutarci qui, ci vediamo la prossima settimana con Claudio e Pietro di Alla Conquista del Gioco. Buonanotte. Ciao ciao!